Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, cari ascoltatori, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Come sappiamo, sono tempi difficili per la capitale, molta la cronaca, l'avete sentita negli ultimi aggiornamenti, continuerete a farlo nel corso della giornata. E adesso, diciamo, ci si mette anche Eurostat. Ultimi dati raccontano infatti che gli abitanti di Roma sono tra i meno soddisfatti nell'UE per la vita nella loro città, e fin lì, diciamo, non c'è molto di che stupirsi, però ci sono dei dettagli. Allora, innanzitutto, peggio di Roma nell'Unione Europea fa solo Atene tra le capitali. In 18 capitali UE almeno 9 abitanti su 10 si sono detti soddisfatti della vita nella propria città. I livelli più alti si registrano a Vilnius, a Stoccolma, a Copenaghen, quindi siamo nell'area baltica, con dati che superano ampiamente il 90%. In 10 capitali il livello è sotto il 90%, si scivola fino a Roma, appunto, 80% di soddisfazione, e Atene 71%. Ma proviamo a sviluppare il ragionamento. Cosa ne sarebbe di un'Europa intesa come Stati dell'Unione senza capitali? Cosa accadrebbe se Roma, Parigi, Berlino, Varsavia non fossero più nei paesi che rappresentano? Sentiamo Alessandro Plateroti. Che cosa succederebbe alla Germania se perdesse Berlino, e all'Italia se perdesse Roma, o Londra se uscisse non dall'Unione Europea ma dall'Inghilterra? Beh, è difficile dirlo sicuramente sul piano sociale, ma sul piano economico qualcuno ci ha provato, ed è stato l'Istituto di Colonia per le Ricerche Economiche, uno dei più accreditati think tank tedeschi e in generale europei. Ebbene, questo centro di ricerca è andato a vedere che cosa accade alle economie nazionali europee nel caso in cui perdessero le capitali. Per quanto riguarda la Germania, e questa è la sorpresa più grossa che viene dallo studio, addirittura il prodotto interno lordo tedesco, la ricchezza nazionale prodotta, salirebbe dello 0,2%, togliendo la capitale. Nel caso di Roma, la caduta del prodotto interno lordo italiano invece sarebbe soltanto del 2,1%, la contrazione più piccola fra tutte le capitali europee. Quella che colpisce di più è Londra, meno 11,2%, togliendola dall'Inghilterra. Per quanto riguarda le altre curiosità, meno 15% il prodotto interno lordo francese senza Parigi, e per quanto riguarda la Spagna, i nostri concorrenti eterni, la Spagna perderebbe il 6% della propria ricchezza nazionale se Madrid decidesse di uscire o staccarsi o venisse cancellata in toto. È chiaro che si tratta di un esercizio di fantasia, un po' un gioco per vedere il peso della burocrazia sulle economie nazionali, ma certamente è emblematico che Roma, pur avendo sede di tutte le grandi imprese pubbliche, le società con grandi fatturato e grandi occupati, bene, togliendola dall'Italia l'impatto sarebbe relativamente esiguo. Come dire, è evidentemente il peso della burocrazia che schiaccia i nostri conti. Numeri dunque che producono un esercizio di fantasia, invece numeri che sono lo specchio, la rappresentazione di un problema molto delicato all'interno dell'Unione Europea. Parliamo di prelievo IVA, quindi della capacità di ciascuno Stato di ottenere, di recuperare, di farsi dare il dovuto, il servizio. Sono quasi 160 i miliardi che vanno in fumo in Europa a causa dell'evasione dell'IVA, e l'Italia è maglia nera per volumi assoluti. A certificarlo uno studio della Commissione Europea che mette nero su bianco come quasi un quarto dell'evasione totale dell'imposta sul valore aggiunto nell'Unione sia made in Italy, ben 36,9 i miliardi non pervenuti all'erario nel 2014, anno per il quale è valida la rilevazione. Il gap tra gli introiti IVA attesi e quelli effettivamente versati, sostiene la Commissione, è ancora una volta a livelli inaccettabili in Europa. Anche per questo Bruxelles spinge per una revisione del sistema IVA per renderlo più efficiente. Il commissario agli affari economico-monetari Moscovici ha sottolineato come l'attuale regime sia deplorevolmente inerme di fronte ai problemi delle frodi e degli errori di calcolo, e ha invitato gli Stati membri ad accelerare sul regime unionale proposto proprio da Bruxelles a inizio anno. Tra le idee c'è quella di cambiare il sistema di riscossione della tassa: sarà prelevata dal paese di origine della merce, che la trasferirà a quello di destinazione, che continuerà a fissare pure l'aliquota. Andando nello specifico dei paesi, l'Italia, che detiene il poco invidiabile primato della la cifra più elevata di IVA non riscossa in Europa, ha comunque aumentato la propria capacità di riscossione in un anno, migliorando il saldo di 1,2 miliardi. La cifra persa dal bel paese rappresenta comunque il 28% del valore complessivo della tassa. Allargando lo sguardo al resto del continente, il divario tra entrate IVA previste e quelle effettivamente riscosse è molto basso in Svezia, Lussemburgo e Finlandia, i paesi più virtuosi, mentre esplode percentualmente in Romania, Lituania e Malta. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto. Da Gigi Donelli un saluto, ci sentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.